Non so se sé partire, partire, non so se andare via, o partire lontano ovunque sia, non fuggire, madre mia, Samhelia, ma è inutile, non so se sé partire, giro solo in zona, da quando avevo in tasca un Nokia e un Motorola. Step by step my brother, vendo ancora pezzi ma non più in zona. Non ho più problemi con la mullala, ma ho sempre problemi con la pullala. Fumo questa shit e sto ullala, baby smoky weed e sto ullala. Frate nal shetan, questa vita loca grazie a Dio è haram. Altrimenti ora frate già lo sai, ero già nei guai, voglio bene assai. La mia Chiquita, con quegli occhi fatti sembra Nikita. Ora ti saluto, parto in Africa, fatto di rica. Non so se partire, partire, non so se andare via, o partire lontano ovunque sia. Non fuggire, madre mia, Samhelia, ma è inutile, non so se sa partire. Un jour je partirai, le DP, les lunettes, quartier. Au quartier, que les problèmes je me suis attiré. Pourquoi je mentirais, pour défouler, ça partirait. Ça partirait. Bandit sur le KX, respirer sous ma shit. Tagoulga Azit, ça tire comme dans Matrix. Et on frappe lololo. Ici c'est pas des lalalal, ça chante sous bras, c'est les. T'sais que c'est le ghetto, ah, je suis pas content, me fais pas perdre mon temps, j'espère que tu m'entends, l'argent sur mon top, top. Ici c'est ratatatatata, si tu changes de gang, gang. Depuis c'est mon gang. Tu me veux en chaussée, Non so se c'est parti. Partire, non so se andare via, o partire lontano ovunque sia. Non fuggire, madre mia, Samhelia, ma è inutile, non so se partire.